sarò al tuo fianco, silenzio, silenzio, profumo, profumo, non saprò pensare, non avrò parole, non avrò più sogni, non avrò parole, saprò solo amare, non avrò parole, non avrò più sogni, saprò solo amare. Quando cadrà l'acqua monotona e triste, cercherò il tuo petto per farmi viziare questo peso enorme che tengo nell'alma, questo peso enorme che non so spiegare, questo peso enorme che tengo nell'alma che non so spiegare. Allora, mio amore, che gli occhi possano un po' lacrimare, silenziosamente come l'acqua cade, silenziosamente sopra la città, silenziosamente come l'acqua cade sopra la città. Mari neri che son della morte.